pace, Gesù. Quel giorno tu sarai tutti in tutti, Gesù. Di nuovo tu verrai, ma già ora vivi in noi. L'universo intero ti amerà, Gesù. Ogni tua parola ascolterà, Gesù. Tu vivrai per sempre in noi, noi vivremo sempre in te. Ogni tuo amor sarà in noi. Tu vivrai per sempre in noi, noi vivremo sempre in te. Ogni tuo amor sarà in noi.